TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Circa 290.000 contribuenti del Friuli Venezia Giulia beneficeranno della riduzione dell'aliquota IRPEF prevista dalla manovra di bilancio appena approvata dal governo. Pronta la normativa per il vino zero alcol, i costi di produzione importanti, anche in regione si pensa a rispondere alle richieste del mercato. Capodanno, festa in piazza e botti vietati, luoghi di aggregazione con limiti di capienza e varchi controllati, meteo sereno ma molto freddo. Il mare d'inverno, quello di Lignano, con 20.000 presenze durante le festività, tantissimi gli austriaci, polo d'attrazione, il presepe di sabbia. 64 anni fa è stata Brigitte Bardot a tenerlo a battesimo a Saint-Tropez. Gilles è figlio di una coppia friulana che lavorava per la diva. Il Rossetti saluta il 2025 con We Will Rock You, musical cult di Ben Elton, scritto in collaborazione con Roger Taylor e Brian May dei Queen. 12:31, buongiorno da Lara Zani e Rita Micoli. Dall'abbassamento dell'aliquota IRPEF alla rimodulazione delle accise sui carburanti ai fondi per le regioni a statuto speciale. Vediamo quali sono gli effetti sul Friuli Venezia Giulia della manovra di bilancio approvata dal governo. In studio c'è Antonio Di Bartolomeo. La manovra di bilancio approvata dal Parlamento nel penultimo giorno dell'anno avrà effetti diretti e indiretti anche in Friuli Venezia Giulia. Sono circa 290.000 i contribuenti che beneficeranno dell'abbassamento dell'aliquota IRPEF dal 35 al 33% per le fasce di reddito comprese tra 28 e 50.000 euro lordi. Il massimo vantaggio è per coloro che dichiarano più di 50.000 euro e meno di 200.000. Risparmieranno circa 440 euro di tasse l'anno. Parliamo di circa 64.000 contribuenti in Friuli Venezia Giulia. Altra novità è la rimodulazione delle accise sui carburanti, 4 centesimi al litro in più per il gasolio, 4 in meno per la benzina. Al momento l'assessorato all'energia e all'ambiente non intende ritoccare lo sconto regionale, ma si terrà d'occhio la dinamica dei prezzi anche in relazione alla convenienza con la Slovenia. Ci sono poi ripartizioni di fondi in favore delle regioni a statuto speciale per compensare gli effetti delle misure finanziarie passate e i nuovi accordi saranno presi entro aprile. Altri trasferimenti riguardano la copertura della tassazione ridotta al 15% per gli straordinari del personale sanitario del servizio pubblico. Tra le novità che riguardano le aree a maggiore presenza di stranieri, come Monfalcone ad esempio, si prevede che le rimesse siano incluse nella giacenza media per il calcolo dell'ISEE. Saltato, come noto, l'emendamento che avrebbe anticipato il finanziamento della cabina via di Trieste, 20 milioni in 2 anni andranno per la gestione del servizio idrico alla società Livenza Tagliamento Acque. Aumentano inoltre di 500.000 l'anno i fondi per la tutela della minoranza slovena, fondi bloccati da molti anni ed erosi dall'inflazione. Stabilita inoltre la creazione di una nuova direzione regionale autonoma dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che finora era insieme al Veneto. 800.000 euro vanno poi all'acquisto di defibrillatori per i campi da calcio in Friuli Venezia Giulia, 150.000 per laboratori didattici per la ricorrenza dei 50 anni dal terremoto del Friuli. Grazie ad Antonio Di Bartolomeo. Approvato il decreto per la produzione e tassazione dei vini dealcolati in Italia. In questo servizio sentiamo cosa comporterà la nuova normativa sui vini che verranno prodotti in Friuli Venezia Giulia e quali sono le prospettive di mercato. Via libera alla produzione del vino dealcolato in Italia dopo il varo del decreto interministeriale del MEF e MISAF, che definisce regole precise per chi intende produrre vini a zero o bassissima gradazione alcolica. Un provvedimento per accompagnare l'innovazione senza mettere a rischio il patrimonio produttivo vinicolo esistente come quello della nostra regione. Viene definito così un quadro normativo chiaro che regola aspetti fiscali, accise e modalità operative. Rodolfo Rizzi, enologo. I vini dealcolati innanzitutto si chiameranno vini, quindi non c'è la possibilità di cadere all'interno del grande mondo delle bevande. Inoltre c'è la possibilità di avere delle altre aperture di mercato quindi mercati soprattutto di paesi oggi non consumatori di vino, e quindi abbiamo una grande possibilità di espansione. Una normativa che arriva quando in Europa esiste già da tempo la produzione del vino dealcolato. Oggi il mercato del vino dealcolato, per quanto riguarda a livello mondiale, copre oltre 2 miliardi e 800 milioni di fatturato. In Italia non c'è questa ancora la possibilità di poter capire quanto sia il volume di affari, ma sicuramente è un mercato in forte espansione. Nella nostra regione sono poche le realtà che si stanno attrezzando, perché le apparecchiature necessarie sono molto particolari e costose. L'idea, con tutta probabilità, sarà quella di realizzare delle reti d'impresa. Togliere l'alcol e poi recuperare gli effetti alcolici con aggiunta di zuccheri, di mosti, è sicuramente un effetto che non è sostenibile. Oltretutto ci sono dei grossi costi di produzione e dei grossi costi di energia per produrli. Udine, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ancora l'economia, Fincantieri attraverso la controllata VAS Submarine Systems, leader nella progettazione e sviluppo di sistemi avanzati di difesa subacquea, si è aggiudicato un importante ordine dalla Marina Indiana per la fornitura di siluri pesanti destinati a 6 sommergibili della flotta indiana. Il valore complessivo dell'ordine è di oltre 200 milioni di euro. Le consegne sono previste tra il 2028 e il 2030. La produzione avverrà nello stabilimento di Livorno, centro nazionale di eccellenza nei sistemi subacquei. La cronaca ferite lievi per una donna di 60 anni che questa mattina alla guida della sua vettura è uscita di strada lungo la regionale 353 fra Castions di Strada e Bivio Paradiso, finendo nel fosso. La donna è uscita autonomamente dall'auto. Sul posto i sanitari e i vigili del fuoco di Udine. La Giunta Comunale di Pordenone ha approvato l'aggiornamento del piano Prospettiva Famiglia, documento strategico che orienta le politiche familiari del Comune e che consente di mantenere la certificazione nazionale di Comune Amico della Famiglia rilasciata dall'Agenzia per la Coesione Sociale della Provincia Autonoma di Trento. Il nuovo piano, intitolato Prospettiva Famiglia, le 3C, Comunicazione, Conciliazione e Cura, raccoglie e sviluppa le azioni già avviate negli anni precedenti ed introduce ulteriori interventi dedicati a genitorialità, salute, protagonismo giovanile, invecchiamento attivo, disabilità e fragilità sociali, oltre a nuove misure economiche e progettualità condivise con imprese, enti del terzo settore e servizi sociosanitari. Tra queste misure economiche figurano l'introduzione del kit di benvenuto per i nuovi nati e l'avvio del fondo di ambito per contrastare la povertà educativa in collaborazione con le imprese del territorio. Il Comune di Udine ha aggiornato la propria struttura interna con l'obiettivo di rendere più lineari e funzionali le attività degli uffici, migliorando la gestione dei servizi e la relazione con cittadini e imprese. La riorganizzazione, che entrerà in vigore subito con il nuovo anno, riguarda diverse aree della macchina comunale, con modifiche che coinvolgono uffici già esistenti, nuove unità operative e con alcuni cambi di denominazione. E adesso apriamo la pagina del Capodanno. Questa sera tante feste in piazza, ma cominciamo da Pordenone e dalla provincia, dove i ristoranti sono praticamente tutti esauriti per il cenone. Confcommercio stima fino al 10% di presenze in più rispetto allo scorso anno. Cenone di Capodanno a casa o al ristorante? Questa sera al ristorante, siamo stati invitati da amici, quindi con piacere veniamo qui all'osteria. Il cenone dell'ultima notte dell'anno registra prenotazioni al completo in quasi tutti i ristoranti del centro, con tavoli sold out già da settimane. Questa sera c'è ancora posto, siete al completo? Questa sera siamo al completo ormai già da 2 settimane, e non vincoliamo nessuno con nessun menu fisso, abbiamo piacere di dare la scelta agli ospiti con un menu alla carta e devo dire che Si prospetta una bella serata. Confcommercio provinciale registra un aumento di presenze per la ristorazione dell'8-10%. Pierangelo Dalmasse, presidente FIPE Confcommercio Pordenone. I dati che abbiamo rispetto all'anno scorso, al 24, sono moderatamente positivi. Si registra un aumento di presenze dell'8-10% per quanto riguarda la ristorazione. La gente vuole in qualche maniera uscire per festeggiare il nuovo anno, probabilmente probabilmente anche per dimenticare un po' le complessità che quest'anno si è portato. Menù alla carta per molti locali, ma in altri resiste la proposta ad hoc per San Silvestro. Abbiamo pensato a un menù speciale per questo Capodanno e sicuramente i nostri clienti saranno soddisfatti. Ci dice qualcosa di speciale che ci sarà, anche solo un piatto? Guarda, sto finendo di preparare la nostra zuppa d'astice all'americana. Al bacio. Attirano le proposte con musica nei locali e quelle organizzate in piazza per tutta la città. Facciamo il cenone, quindi abbiamo la sala sold out e si balla anche, dopo abbiamo anche il DJ set. Anche la piazza Pordenone offre molto quest'anno, soprattutto per la festa dell'ultimo dell'anno in piazza di settembre. Spero di arrivarci anch'io sul dopo. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. E continuiamo a parlare di Capodanno con le feste in piazza. Il Comune di Trieste organizza uno spettacolo musicale e pirotecnico in piazza Unità d'Italia dalle 22.30. Per consentirne lo svolgimento è stata disposta una serie di modifiche alla viabilità con divieto di transito lungo le rive, anche per bici e monopattini lungo la pista ciclabile delle rive triestine. Vietato il transito pedonale in piazza Unità fino al completo sgombero della piazza, con successiva possibilità di ingresso dall'ultimazione delle operazioni di bonifica solamente in corrispondenza dei varchi presidiati. Udine saluta il nuovo anno con una grande festa in piazza Primo Maggio dalle 22 alle 22.30, spettacolo di droni luminosi, a seguire il conto alla rovescia, il brindisi di mezzanotte, lo spettacolo pirotecnico. Piazza Primo Maggio sarà chiusa al traffico veicolare, mentre resterà operativo il parcheggio sotterraneo. Fino a domani mattina saranno interdetti anche al transito pedonale i vialetti di accesso al piazzale del Castello. L'area più vicina al palco avrà una capienza massima di 4.000 persone e sarà accessibile attraverso 4 varchi pedonali controllati, dotati di un sistema di conteggio in tempo reale. Vietati bicchieri di vetro, ceramica e lattine nell'area della manifestazione e niente alcol in quella più prossima al palco. Divieto assoluto di utilizzo di botti, petardi e giochi pirotecnici su tutto il territorio comunale fino alla mezzanotte del 6 gennaio. A Gorizia Capodanno in piazza Vittoria dalle 22 la capienza massima sarà di 4.500 persone. La pista di pattinaggio sul ghiaccio sarà accessibile fino alle 23.30. Le casette con specialità enogastronomiche saranno invece operative per tutta la durata della festa. Previsti 3 varchi di accesso con controlli di sicurezza. Non sarà consentito portare in piazza bottiglie, bicchieri di vetro, lattine, porcellana, bottigliette di plastica con il tappo e oggetti contundenti. Fino a venerdì 2 gennaio è vietato accendere, sparare e lanciare e fare uso di fuochi artificiali e materie esplodenti in genere. E anche a Pordenone è vietato l'utilizzo di petardi, mortaretti e simili in luogo pubblico o aperto al pubblico. In piazza 20 settembre non verrà organizzato questa sera uno spettacolo pirotecnico, ma con i droni. In piazza il concerto di Steph Burns, il chitarrista di Vasco Rossi. La festa sarà a ingresso gratuito e saranno aperte le casette gastronomiche. Il meteo sarà buono ma freddo per chi questa notte deciderà di festeggiare nelle piazze, ci dice tutto Federico Bonaldo dell'ARPA Friuli Venezia Giulia. Anche oggi è stata una giornata stabile, soleggiata. Stasera continuerà questa situazione, quindi tutta la regione il cielo sarà sereno. Qualche locale nulla basta potrà essere presente lungo la costa occidentale, a bassa pianura, tra Lignano e Grado, ma comunque in prezzo di tempo stabile e con assenza di precipitazioni. Sarà ieri appunto sulla regione è giunta aria piuttosto fredda, quindi anche per questa notte il freddo rimarrà, sarà una notte congelate, temperature negative in pianura. Stamattina si sono toccati anche meno 5 gradi su alcune località della pianura, anche nella prossima notte comunque si prevedono temperature dai meno 3 ai meno 4 gradi diffuse su tutta la pianura. Sulla costa le temperature saranno un po' più alte grazie all'effetto mitigatore del mare, comunque saremo sempre intorno a 1-2 gradi. Nella giornata di domani, il primo giorno dell'anno, e quindi si aprirà ancora con giornate di bel tempo, cielo da sereno poco nuvoloso. Dal pomeriggio però la situazione inizierà a cambiare, ci sarà un aumento della nuvolosità e il cielo diventerà coperto poi verso sera, in particolare su pianura e costa. E temperature massime di domani sempre piuttosto fredde, tra 5 e 6 gradi di massima. Poi la situazione per almeno il venerdì, poi il 2 gennaio, il giorno seguente, affluiranno correnti un po' più umide che porteranno maggiore nuvolosità. E venerdì nella notte ci potrebbe essere anche qualche debolissima pioggia piovigine sulle zone orientali della regione, tra Trieste e Gorizia, lungo il confine con la Slovenia. Temperature minime che torneranno grazie alla copertura nuvolosa a aumentare. Nel fine settimana, sabato e domenica, sembra che possa tornare, anche se c'è un po' di incertezza a riguardo, un nuovo ingresso di aria un po' più fredda. E vediamo ora qual è la situazione meteo attuale. Il cielo è da sereno a poco nuvoloso sulla regione. Le temperature registrate alle 11 a Trieste 6 gradi, a Gorizia 4 gradi, a Udine e Pordenone 3 gradi. A Tolmezzo meno 2 gradi, a Forni di Sopra meno 3 gradi, sul Piancavallo meno 4, a Tarvisio meno 6, a Sappada meno 8 gradi, sul Monte Zoncolan meno 6, sul Monte Lussari meno 8, sulla costa a Lignano e a Grado 4 gradi. Un periodo di feste da grandi numeri a Lignano, dove le presenze turistiche di italiani e stranieri sono da record. Polo di attrazione il presepe di sabbia. Lignano d'inverno non è più una suggestione ma una realtà. Tutto nasce dal presepe di sabbia allestito all'ingresso numero 6 della spiaggia, che sta facendo il pieno di turisti. Numeri da record resi noti dal comune, oltre 100.000 presenze nel periodo natalizio, ma sono soprattutto i pernottamenti negli alberghi a dare il senso della nuova stagionalità lignanese. Circa 20.000 le presenze negli alberghi, in gran parte stranieri, con una buona propensione anche alla spesa. Stasera a Lignano la festa dalle 21.30 dal palco di Viale Gorizia, domani alle 16.30 il concerto di Arisa. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. E sentiamo da Luigi Suto, vicepresidente di Confcommercio Lignano e albergatore, una lettura del successo e dell'attrattività di Lignano anche fuori stagione. Sutto, un Natale felice per Lignano, soprattutto dal punto di vista delle presenze alberghiere. Sì, è stata non proprio una sorpresa, ce l'aspettavamo, abbiamo lavorato per preparare questo Natale e la risposta c'è stata, soprattutto nel mercato austriaco. Le presenze sono soprattutto straniere? Sì, in questo momento io sono al completo e ho il 100% di presenze austriache, quasi tutti i nostri ospiti che sono tornati a trovarci anche d'inverno. A grandi linee, quante potrebbero essere state le presenze a dicembre a livello alberghiero che hanno pernottato? Se faccio un confronto con quello che ci ha dato l'Istat lo scorso anno, siamo 20.000, ma forse anche più. Lei è anche vicepresidente della Confcommercio di Lignano. Dal punto di vista invece commerciale, cioè degli acquisti, come è andata? Io vedo che c'è una maggiore propensione alla spesa d'inverno che all'estate. Siamo sotto Natale, la questione regali, uno si permette qualche spesa in più. Ho visto molti ospiti rientrare con le borse, quindi un buon Natale anche per il commercio. Lignano, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Una storia che attraversa il tempo con la forza dei legami autentici e della fiducia mai tradita. È la storia di Gilles Deane e dei suoi genitori emigrati friulani per molti anni al servizio di Brigitte Bardot nella sua villa in Costa Azzurra. Un legame profondo custodito nel silenzio per una vita intera, nel quale era chiusa l'amicizia, la lealtà, la gratitudine tra i suoi protagonisti. Nella sua casa di San Lorenzo di Sedegliano riavvolge il nastro dei ricordi per svelarci il suo legame speciale con Brigitte Bardot, fino ad oggi mantenuto nel riserbo. L'attrice lo ha tenuto a battesimo a Saint-Tropez, dove è nato 64 anni fa, da emigranti friulani che per 15 anni hanno lavorato al servizio della diva nella sua villa sul mare. La madre Anna da governante, il padre Angelo da giardiniere e custode. All'anagrafe Egidio De Anne, da tutti e da sempre chiamato Gilles, nome che deve alla Bardot. E lei mi ha tenuto al battesimo e ha scelto il nome lei, Gilles. Però quando siamo venuti in Italia, all'anagrafe non accettavano. Mi hanno chiamato lei ha detto aspettate qualche giorno che arrivo io e metto a posto io le cose. Però lei non arrivava e non mi ha messo Egidio Federico, però tutti mi chiamano Gilles. Con discrezione, dedizione e rispetto, i coniugi di Anne seppero stare accanto all'attrice senza mai tradirne la fiducia. Tutti questi giornalisti non sono mai riusciti a vederla oppure avere qualche foto, qualche cosa da lei, perché loro, mio papà e mia mamma, non hanno mai dato notizie di lei, muti. Lei quella cosa lei è sempre apprezzata. Un rapporto autentico basato sulla semplicità che la stessa Bardot ha sempre cercato e amato, una relazione lunga e profonda proseguita anche dopo il ritorno a San Lorenzo di Sedegliano nel 64, quando Gilles aveva 3 anni per avviare nella casa di famiglia un'attività agricola e una stalla dove la diva, anche quando già era attivista in difesa degli animali, venne alcune volte in visita. Io mi ricordo quando veniva lei la prima cosa che caressava tutte le mucche. Dopo il terremoto del Friuli del 76, attraverso il vescovo di Udine, Monsignor Battisti, la Bardot riuscì a rintracciarli per offrire loro di tornare tutti e 3 a Saint-Tropez. Rifiutarono. L'ultimo ritrovarsi nel 2000, quando arrivò al confine di Gorizia per un blitz animalista. In quell'occasione volle rivedere Gilles. Genitori, come siamo? Io ho detto che sono mancati e lei è dispiaciuta perché non ha potuto venire al funerale. Un'emozione tornare a vederla dopo tanti anni. E dispiace che non c'è più perché era una donna gentile, ma quello che ho conosciuto io, più che gentile. Lara Boccalon, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il Rossetti di Trieste saluta l'anno vecchio con We Will Rock You, il musical sui Queen che racconta un mondo dove si ascolta solo computer music. Il luogo è il pianeta Mol, il tempo quello di un futuro orwelliano nel quale gli strumenti musicali sono stati aboliti e la musica rock è sconosciuta. Sembra assurdo, ma i reperti dicono che un tempo esistevano canzoni che duravano ben più di 15 secondi. L'addio delle Rossetti al 2025 e il saluto al 2026 è all'insegna del rock. In scena We Will Rock You, il musical cult di Ben Elton, scritto in collaborazione con Roger Taylor e Brian May dei Queen, uno dei più rappresentati al mondo, nell'edizione diretta da Micaela Berlini. Controllato dalla multinazionale Global Soft Corporation e da Killer Queen, i Gaga Kids ascoltano solamente la computer music, vestono allo stesso modo e pensano le stesse cose. Sarà la ribellione di Galileo e Scaramucci a ripristinare la musica dal vivo e la libertà di espressione contro ogni omologazione. I giovani ribelli scrivono la loro rivoluzione sulle note dei Queen e delle loro canzoni più amate, in una storia che guarda al futuro e alla battaglia per un mondo migliore. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale, in regia Federico Comar e Giuliano Pecorari. In redazione ha collaborato Zeno Duban. Da Lara Zani e da Rita Micoli grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.